Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Che state sentendo era la colonna sonora del film, un film di alcuni anni fa, Mio cognato, con Sergio Rubini. Era un film ambientato a Bari, era soprattutto un viaggio notturno fra la cosiddetta Bari bene e la Bari criminale. Perché ho scelto questa colonna sonora? Beh, per introdurre il libro di cui vi parlo oggi, che è ambientato a Bari, fra appunto la cosiddetta Bari bene, ma anche la Bari criminale, la Bari della corruzione e delle tangenti. Il libro si intitola La ferocia e l'ha scritto Nicola La Gioia, pubblicato da Einaudi. Sempre con Einaudi, La Gioia aveva pubblicato Occidente per principianti e Riportando tutto a casa. Il suo ultimo romanzo era del 2009, insomma ci ha messo 5 anni sostanzialmente fra un romanzo e l'altro. È quello che definiamo uno scrittore lento, ma poi sentirete anche nell'intervista che lui ci spiega il perché di questa sua lentezza. Ma veniamo alla ferocia, che appunto è un libro pubblicato alla fine del 2014, ma ci scommetto sarà uno dei protagonisti, magari anche dei premi letterari, poi ne parleremo, del 2015. Allora, protagonisti sono diversi personaggi, diciamo che tutto ruota intorno a tale Vittorio Salvemini, che è un palazzinaro senza scrupoli. Vittorio Salvemini ha 4 figli, ma l'attenzione si concentra su 2, su Clara, che, lo diciamo subito perché succede a pagina 3 o 4, insomma, muore in condizioni misteriose, in circostanze misteriose, non si capisce se si sia suicidata o se si tratti di omicidio, e il fratellastro di Clara, Michele, che cercherà di indagare, di scoprire, tornerà da Roma a Bari per capire che cosa è successo alla sorella. E cercando di capire cosa è successo alla sorella, naturalmente va a scoperchiare tutta la corruzione, gli imbrogli, le tangenti di cui è protagonista il padre, appunto costruttore edile. Partiamo allora dal personaggio di Vittorio Salvemini. La parola a Nicola La Gioia. Vittorio, ecco, se fosse un animale sarebbe uno squalo, un pesce cane. Vittorio, appunto, come tu giustamente hai detto, è un palazzinaro, è il capo famiglia di una famiglia in cui la ricchezza è anche la corruzione, ecco, i soldi e la corruzione marciano di pari passo. Vittorio non si ferma davanti a niente, se deve far incendiare un pezzo di macchia mediterranea per costruire un villaggio turistico, lo fa, non si fa proprio nessuno scrupolo. Ecco, se fosse vissuto 30 anni prima, ecco, sarebbe potuto essere il papà di Gassman in C'eravamo tanto amati, che era il papà, il suocero di Gassman in C'eravamo tanto amati, che era Aldo Fabrizi, che era un terribile palazzinaro romano. Questo è un terribile palazzinaro barese. Esattamente. Però ci tengo a dire una cosa, quando appunto il fatto di raccontare da scrittore un personaggio così negativo come Vittorio è diverso che farlo da intellettuale. Cioè, da intellettuale io lo condannerei, uno come Vittorio. Da scrittore, se lo devo raccontare, diventa mio fratello. Cioè, io per rendere credibile un personaggio orrendo come Vittorio devo tirare fuori il Vittorio che è in me. Ecco, questo è un po' il discrimine, ecco, fra come si approccia alla pagina un intellettuale, come si approccia alla pagina uno scrittore, anche quando sono la stessa persona. Beh, naturalmente uno scrittore non, se è un bravo scrittore di narrativa, non dà mai giudizi sui suoi personaggi, ma li fa emergere, insomma. Poi sarà il lettore, sì, sì. Sarà il lettore a trarre le sue conclusioni. Gli altri personaggi importanti, fondamentali, sono, dicevamo, Clara e Michele. Sì. Clara, lo diciamo, tanto succede nelle prime pagine, muore. E, insomma, questa donna bella, insomma, affascinante, da cui molti rimangono colpiti, viene, diciamo, investita sulla statale Bari-Taranto, però poi viene ritrovata in un autosilo. Michele, il suo fratellastro, che cercherà, diciamo, di indagare quali sono le vere cause della morte, perché inizialmente si pensa a un suicidio, ma lui non è così convinto. Ecco, partiamo innanzitutto da loro due. Che rapporto c'è? Perché quasi morboso l'attaccamento, sì, fra Clara e Michele. Sì, è quasi a pochi passi dall'incesto, potrebbe essere, a seconda delle interpretazioni. E loro sono un po', come dire, in una famiglia del genere, in questa famiglia qui che abbiamo raccontato, che abbiamo cominciato a raccontare, sarebbero i figli sbagliati, sarebbero le serpi in seno per cui però il lettore potrebbe legittimamente tifare. Cioè sono questi figli che si rendono conto, ecco, Clara e Michele sono fratellastri, appunto. Michele è figlio di una relazione illegittima, ecco, lui sarebbe stato un bastardo in un romanzo dell'Ottocento, l'avremmo chiamato così, di suo padre. Loro si rendono conto da ragazzini che stanno crescendo in una famiglia abbastanza orrenda e stringono un'alleanza a un certo punto, in maniera confusa, in maniera anche morbosa. Poi questa alleanza diventa sempre più chiara e più esplicita man mano che si va avanti, cioè decidono proprio di mettersi di traverso, di remare contro la propria stessa famiglia. E come appunto dicevi giustamente tu, Michele, ecco, se questo fosse un noir, Michele sarebbe un po' l'investigatore, cioè lui indaga sulla morte della sorella. Ecco, tu dici se questo fosse un noir, sì. Apparentemente sembra, almeno all'inizio, un noir, che non è insomma proprio il tuo genere. Come mai hai deciso di dare così questo tocco di romanzo di genere al tuo romanzo? Beh, perché io mi dicevo sempre il genere come fine, il genere come mezzo e non come fine. Cioè, nel senso che, pensiamo a Delitto e Castigo, no? Anche lì c'è un omicidio. Raskolnikov ammazza la vecchia, potrebbe essere un noir, ma in realtà, appunto, è il genere sabotato e parodiato per poi parlare, è un pretesto per poter parlare di tante altre cose. Poi, appunto, il noir in realtà si ricollega a un genere, diciamo così, se vogliamo chiamarlo così, letterario ancora più antico, che è quello dell'indagine, no? L'indagine più antica della letteratura è quella, ce l'abbiamo addirittura nell'antica Grecia, è quella di Edipo, che indaga su se stesso, e quando indaghi su te stesso di solito non fai belle scoperte. È appunto Michele che indaga sulla morte della sorella, in realtà indaga su se stesso, cioè indaga sulla sua famiglia, e non fa belle scoperte neanche lui. No, non sono belle scoperte, perché l'immagine, il quadro che emerge non solo della famiglia Salvemini, appunto di Vittorio Salvemini, che abbiamo definito palazzinaro appunto, ma anche di tutto il contesto che lo circonda. Insomma, Bari non esce bene, ma credo che sia una questione, internazionale, non di localizzazione geografica. No. Cioè, questo è un romanzo dove emerge la corruzione, l'imbroglio, la voglia quasi di fregare il prossimo, insomma. Sì, è appunto come dovrebbe, credo, fare la letteratura, è un po' la parte per il tutto. Cioè, sì, è ambientato a Bari, ma potrebbe essere Roma, vediamo che cosa è successo a Roma negli ultimi mesi, potrebbe essere Milano, potrebbe essere una qualunque città, perlomeno italiana. Tra l'altro il titolo è abbastanza emblematico, La ferocia. È un mondo in cui chiunque possa comprare chiunque, in cui il pesce grande di solito mangia il pesce più piccolo. La ferocia non è altro in questo romanzo se non il ritorno dello stato di natura, insomma della legge della giungla, da cui noi crediamo sempre di esserci emancipati, e poi nei periodi particolarmente difficili, per esempio in un periodo di crisi in cui anche le grosse famiglie come i Salvemini rischiano di andare a testa in giù, appunto ci si inferocisce, ci si incarognisce ancora di più. Se non fosse però, è questo appunto l'elemento forte secondo me di Clara e Michele, che noi siamo capaci all'occorrenza, anche se viviamo in un mondo feroce, anche se viviamo in un mondo in cui appunto il pesce grande è vinto dalla tentazione di mangiare il pesce più piccolo, noi abbiamo il libero arbitrio, cioè noi siamo capaci occasionalmente di sabotarci, cioè di sradicare da noi l'istinto di prevaricazione che ci porterebbe altrimenti a sbranarci gli uni con gli altri. Noi, per carità, ci sbraniamo purtroppo gli uni con gli altri, ma abbiamo dei momenti di discontinuità che forse sono anche, come dire, dei momenti di amore, chiamiamolo così, seppure una forma rozza di amore, e quelli ci salvano, e quelli secondo me salvano Clara e Michele, nonostante Clara soccomba, perché come dicevi tu muore a pagina 4. Abbiamo detto che si parla dettagliatamente di Bari. Bari è descritta proprio anche fisicamente, le strade, le vie, però tu hai detto che di non ricercare nei personaggi di questo romanzo La ferocia delle persone realmente esistite oppure degli scandali recenti e così via. Quindi quanto hai preso spunto dalla realtà e quanto invece ti sei fatto un po' trascinare dalla tua fantasia? Sì, guarda, quando sono andato a presentare il libro a Bari in Puglia, le domande che mi facevano sempre sono: costruttori baresi, ma sono i Materrese o sono i De Gennaro? le due famiglie baresi. E io rispondevo: guarda, non è nessuna delle due, perché nulla è vero in questo romanzo, ma tutto è verosimile. Ecco, l'importante è che sia verosimile. Allora, questo è un romanzo in cui prendi un costruttore importante e avrai la filiera del potere che può reggere una città o un paese. E quindi, come dire, non soltanto a Bari, no? I costruttori hanno a che fare con i politici locali per le concessioni edilizie, con la sanità per gli appalti, con eventualmente con la criminalità organizzata e così via. Cioè, quindi è una cosa talmente purtroppo diffusa in Italia che non c'è bisogno di riferirsi a un caso di cronaca in particolare. Cioè, la cronaca, per così dire, viene più che altro in aiuto dell'invenzione. L'importante è che sia verosimile. In questo romanzo ci sono diverse cose che mi hanno colpito, per esempio la costruzione della trama, come emerge la storia di questi personaggi pagina dopo pagina, ma soprattutto sono rimasta colpita dalla scrittura. È una scrittura, si vede, si sente ricercata, lavorata. Tu ci hai messo 4 anni per scrivere, sì, questo romanzo, e hai anche detto che sono stati 4 anni intensi, dolorosi anche. Che tipo di rapporto hai con la scrittura, cioè come lavori la tua pagina e che rapporto hai proprio emotivamente nel momento in cui scrivi un romanzo? Allora, per me la cosa difficile all'inizio è sintonizzarmi proprio, quindi all'inizio è proprio un lavoro emotivo su quella che è la mia più grande urgenza. Di solito quelle che sono le nostre più grandi urgenze sono anche le cose più difficili, più dolorose e più scomode da tirare fuori. Quindi una volta che, e io ci metto sempre qualche mese per capire qual è il libro che davvero non voglio, posso scrivere, ma devo scrivere. Una volta che mi sono appunto sintonizzato con la mia urgenza più grande, è lì poi è tutto lavoro sia di invenzione ma anche muscolare. Io scrivo, quando scrivo un romanzo, come minimo sto 5-6 ore al giorno ogni giorno, quindi anche sabato e le domeniche. Infatti mia moglie è uscita stremata quanto me dalla scrittura di questo libro, e da cui io poi non mi volevo staccare. Sono stati 4 anni, ma senza interruzioni, perché a un certo punto sentivo che il libro proprio rispondeva ai miei tentativi di andare avanti, di indagare, di scavare. Quindi io a mia volta dovevo ribattere o comunque alzare la posta o comunque buttare altra fatica sul piatto. Tant'è vero, cioè, per dirti come sono andati questi 4 anni, a un certo punto mi hanno chiamato a fare il selezionatore della mostra del cinema di Venezia, e quindi c'era il problema di doversi trasferire 2 mesi al Lido di Venezia e a vedere i film che cominciavano alle 9:30 del mattino e finivano alle 8 per 2 mesi. Allora io non mi volevo staccare dal libro perché, insomma, avevo paura poi di non riuscire a ritornarci dentro. Allora io per 2 mesi mi sono svegliato alle 4 del mattino, dalle 4 alle 9 scrittura, 9 colazione, 9:30 film, fino alle 8 cena, 10. Ma chi dice, ecco, che fare lo scrittore è una cosa piacevole, è faticoso, è un lavoro scrivere. Tra l'altro ricordiamo che tu sei anche un editor, cioè sei responsabile anche, sì, di una collana di narrativa, la Nickel, sì, della Minimum Fax. Quindi in genere valuti anche la scrittura e i, sì, lavori di altre persone. Visto che sei uomo, ecco, di mondo e di editoria, posso anche farti questa domanda. Insomma, sì, lo sappiamo che ogni anno si pensa subito ai premi letterari, chi arriverà per esempio allo Strega, eccetera. Qualcuno inizia a vociferare che Einaudi potrebbe presentare il tuo romanzo allo Strega, insomma. Come, sì, la vedi tu? Che ne so, io queste cose qua le ho lette sui giornali, ma ancora non so niente dalla casa editrice, quindi non ho idea se questa cosa qui è vera o meno. Probabilmente. E come i premi, tu che cosa ne pensi? Cioè, servono, non servono a uno scrittore? Sono sopravvalutati? Servono solo al pubblico? Guarda, io sono, da questo punto di vista, a rischio di sembrare brutale, sono molto pragmatico. Per esempio i premi in soldi, no? Che si vincono 5.000 euro, 10.000 euro, il Campiello mi sembra che danno 10.000 euro. Sì. Questa cosa qua, per esempio, per me, per uno scrittore, è importante, perché io ogni soldo che mi entra in tasca, sia appunto dai diritti d'autore, ma anche da altri lavori che faccio, lo quantifico sempre come tempo. Cioè mi entrano 1.000 euro in tasca e dico, ecco, ho 25 giorni in più per scrivere. Quindi qualunque cosa, perché poi uno scrittore la cosa che vuole fare più che vincere premi è scrivere, fondamentalmente. Scrivere infatti, in pace, stare in pace a scrivere. Qualunque cosa mi aiuta a fare questa cosa qui, quindi anche i premi letterari, vanno va bene. No, ma infatti lo diciamo spesso anche nel Cacciatore di Libri, in questa trasmissione, che non è che gli scrittori possono vivere d'aria. Insomma, il lavoro intellettuale va giustamente pagato, va riconosciuto un valore economico, altrimenti nessuno potrebbe più dedicarsi alla scrittura dei libri. Tu sei anche, appunto, dicevamo prima, sì, uno scrittore lento, nel senso che ci mette un po' di tempo fra un libro e l'altro, visto che fai anche parte della macchina dell'editoria. Sì. Questo scrivere un libro ogni 4-5 anni contrasta un po' con le attuali regole dell'editoria? Allora, guarda, secondo me questa è una preoccupazione soltanto degli editori. Io quando, appunto, prima di pubblicare questo libro, appunto con Einaudi, a un certo punto dalla casa editrice una piccola preoccupazione c'era stata, no? Il fatto, oddio, ma tu sei uno che pubblica un libro ogni 4-5 anni, sarebbe meglio che pubblicassi ogni 2-3 anni, perché poi... Qual è il loro timore? Il timore degli editori, che secondo me è un timore sbagliato, la gente magari poi nel frattempo si può dimenticare. Però io, se ho letto un libro che mi piace, me lo ricordo anche fra 30 anni. Quindi questo secondo me è un falso problema. Sembrerà banale, ma un libro buono, ecco, un bel romanzo è la migliore arma che non soltanto uno scrittore ma anche un editore può avere all'arco per venderlo, anche per fare fatturato. Quindi se ci vuole un anno in più, 2 anni in più, per ottenere questo risultato, secondo me va benissimo. E poi fammi dire anche, visto che hai detto che faccio anche l'editor, che questa cosa qua per me è salvifica, cioè il fatto di occuparmi anche dei libri degli altri, perché lo scrittore è un lavoro solitario. Allora il fatto di essere l'artefice della tua fortuna, della tua rovina, è meno interessante secondo me che condividere sia gli insuccessi che i successi con qualcun altro, e quindi il fatto di fare anche un lavoro di gruppo per me è fondamentale. Ci sono stati già diversi critici, insomma, che si sono espressi sulla ferocia, su questo tuo romanzo. Qual è la cosa più bella che hai sentito dire sul tuo romanzo e quella invece che non che ti ha infastidito, ma che ritieni proprio non corrispondente alla verità? Di cose belle ce ne sono state tante, perché è stato molto, ecco, è successo a questo romanzo una cosa un po' particolare, difficile, chissà se mi ricapiterà mai, cioè il fatto che un libro che è stato molto amato sia dalla critica e siamo che dal alla, pubblico, perché siamo è stato alla ristampato, esattamente. Sì, e quindi ha fatto molte ristampe proprio in pochi mesi, quindi sono, da questo punto di vista è veramente tutto grasso che cola. No, per le critiche, allora, le critiche sono assolutamente legittime, cioè che io una volta, io non mi arrabbio mai quando c'è una stroncatura, pure ci sono state delle critiche al libro, come è giusto che sia, un romanzo deve fare questa cosa qua, deve fare anche incazzare, deve fare anche arrabbiare qualcuno, va benissimo. Io le critiche che trovo, come dire, fuori luogo, ecco, sono quelle che dicono, ah, però è un romanzo anche un po' difficile, questa cosa qua, perché se leggessero Gadda, se leggessero Faulkner, se leggessero Musil, che farebbero? Si ammazzerebbero. E poi appunto il fatto che il romanzo, che non, diciamo così, che ha una sua complessità, trova addirittura un pubblico, e un pubblico non proprio così piccolo, vuol dire che i lettori spesso sono sottovalutati, come dire, la risposta dei lettori è la migliore risposta appunto a questa cosa qui. Grazie a Nicola La Gioia, ora in libreria con il romanzo La Ferocia, pubblicato da Einaudi. E veniamo ora al nuovo romanzo di Simona Sparaco, che si intitola Se chiudo gli occhi, pubblicato da Giunti. Un romanzo in cui la protagonista è una ragazza, una donna, si chiama Viola, e che non conosce suo padre. Un giorno, mentre sta lavorando nel negozio di fotografia, appare quest'uomo, insomma, che dichiara essere suo padre. Inizia così un percorso di conoscenza reciproca, perché di fatto Viola non ha mai conosciuto il padre, e questo percorso di conoscenza reciproca avverrà anche attraverso un viaggio che i due faranno. Sentiamo allora come l'autrice Simona Sparaco descrive Viola. Viola è una donna implosa, direi, nel senso è un personaggio che non ha consapevolezza di sé. È stata abbandonata dal primo uomo che avrebbe dovuto proteggerla, il padre, e di conseguenza tutta una serie di scelte nella sua vita sono state fatte in base a questo abbandono. Quindi anche un marito che non è proprio l'uomo della sua vita, con il quale l'amore, forse quello vero, non c'è mai stato. Quando incontra suo padre, prova ancora molto astio, ma nello stesso tempo è sempre rimasta affascinata dalla figura di questo scultore famoso che girava il mondo, ma del quale però non conosce tutto il passato. Quindi il padre sente il bisogno di doversi raccontare alla figlia, dicendole anche che forse non ci si può raccontare ai figli quando sono ancora piccoli, quando ti vedono solo come un ruolo, come una funzione, e quindi e soprattutto non ci si può raccontare a qualcuno senza prima essersi raccontati a se stessi. E quindi arriva da lei con l'esigenza di parlare, di dirle la verità sulla sua vita e sulla sua storia. Inevitabilmente, insomma, i figli, i ragazzi che vengono abbandonati dai genitori portano dentro delle ferite profondissime che poi hanno ripercussioni sulla vita. Qual è il vuoto più grande nella vita di Viola provocato proprio dall'assenza del padre? Io credo che la figura paterna sia la costruzione intorno alla quale, cioè la planimetria intorno alla quale ci costruiamo come donne, il riferimento, quanto siamo state amate, quanto siamo state desiderate, volute, protette, e quindi le nostre scelte, anche semplicemente l'uomo che ci scegliamo come compagno, non può prescindere da questo rapporto. Viola ne sa qualcosa e quindi porta in sé, dentro di sé, un senso di vuoto e di perdita, di abbandono, che cercherà di colmare però andando in strade che non sono poi le sue. Lei quello che dovrà cercare di fare è trovare il suo posto nel mondo. Prima dicevi che il padre Oliviero, appunto fa lo scultore, era stato famoso soprattutto negli anni 70, fa delle sculture particolari, sente il bisogno di raccontarsi, sente il bisogno di dire la sua versione dei fatti. Perché vuole riscattarsi agli occhi della figlia, o è quasi per mettersi in pace anche con se stesso? Sicuramente c'è una componente desiderio di pace. Oliviero è arrivato a un'età in cui si fanno i bilanci e si cerca di mettere a posto, no, le cose che non sono andate nel verso giusto. Ha una figlia, la sua vita è contorniata da figure femminili nei confronti dei quali lui è sempre stato inadeguato, o comunque si è sempre sentito anche inadeguato, quindi non cerca un riscatto, secondo me, ma cerca proprio il bisogno di raccontarsi e di essere onesto almeno con le persone che più meritano questa onestà da parte sua, quanto di più di una figlia. In questo romanzo, Se chiudo gli occhi, si parla soprattutto di un viaggio fra un padre e una figlia che devono scoprirsi, dico riscoprirsi, ma in realtà appunto è scoprirsi, insomma, visto che non si conoscono quasi affatto. E c'è anche un luogo, quello dei Monti Sibillini, che ha una grande importanza in questo romanzo. Oliviero sente la necessità di portare Viola nel suo paese di origine. Perché? E che importanza ha questo luogo fisico? Monte Monaco è il luogo dove Oliviero è stato bambino, allevato da donne speciali come nonna Antina, come Nora, figure che richiamano le guaritrici che c'erano una volta, e Nora in particolare si ispira a una veggente marchigiana realmente esistita, Pasqualina Pezzola, una donna straordinaria che era capace di fare visite a distanza, di entrare addirittura nel corpo delle persone per fare delle diagnosi, un personaggio realmente esistito che io ho conosciuto da bambina e nei confronti della quale ho sempre avuto una grande soggezione, ammirazione, e sentivo il desiderio di esplorare questo tipo di donne. E il Monte Sibilla è la montagna sacra del nostro paese, una montagna femminile piena di energie femminili. Sai che quando vai sulle montagne sacre ci sono addirittura nel Monte Uluru ci sono dei cartelli con scritto energie maschili, energie femminili, e la montagna della Sibilla è una montagna attraversata da energie femminili che in qualche modo richiamano anche alle leggende che ci sono intorno alle fate, alla Sibilla, alle streghe, e volevo esplorare questo mondo perché da narratrice non potevo che rimanerne affascinata. Sono capitata io per prima a Monte Monaco, sono stata accolta da questa comunità e mi è stato fornito tutta una serie di materiali sui quali ho studiato per poi raccontare questo viaggio, un viaggio metaforico alla riscoperta di sé, e questo bianco gessoso che attraversano i miei protagonisti, Viola e Oliviero, è un bianco poi che richiama le sculture del padre di Viola, che in realtà non ha fatto altro tutta la vita che cercare di vedere oltre le cose. Questa l'arte, no? La capacità di andare a vedere oltre quello che si vede, e quindi ho cercato di raccontare una storia ambiziosa della quale sono molto orgogliosa. Con il tuo precedente romanzo, Nessuno sa di noi, pubblicato sempre da Giunti, eri arrivata l'anno scorso come finalista nella cinquina dello Strega. Adesso che cosa ti aspetti da questo romanzo, e soprattutto chi pensi possa essere il pubblico che aspetta di leggere il nuovo romanzo di Simona Sparaco? Io, grazie a Dio, non ho mai aspettative sulle vendite, sui premi. Questo un po' mi salvaguarda, nel senso che ho sempre scritto, mentre scrivo poi non penso a questo. Okay. Sì, per fortuna. Per fortuna, perché sennò vivrei malissimo. Però insomma, ti immagini un tuo lettore tipo, non so, pensi che possano essere più donne che uomini, oppure la tua esperienza nelle presentazioni in tour in giro per l'Italia ti danno l'idea che invece siano sia uomini che donne? Per nessuno sa di noi, devo essere onesta, erano chiaramente, era il pubblico maggiormente femminile, donne nei confronti delle quali io, donne che hanno amato il libro e che credo di aver aiutato attraverso il libro, perché mi arrivano dei messaggi, soprattutto ultimamente mi arrivano messaggi di bambini appena nati e di mamme che mi dicono: questo bambino è al mondo grazie a questo, grazie al tuo libro, quindi perché mi ha dato la forza di riprovarci e di provare a diventare mamma. Quindi non c'è soddisfazione più grande. Poi in realtà questo libro, che è uscito da poco, già incontra invece un pubblico maschile, perché sono molti gli uomini che mi scrivono, che rimangono affascinati, soprattutto perché forse parliamo di rapporto padre-figlia. Sì. E quindi c'è una componente che non possiamo ignorare, il fatto che l'uomo quando diventa padre, soprattutto padre di una figlia femmina, secondo me ha già una paura pazzesca, per cui chiaramente un libro che parla di un viaggio di un padre e una figlia che si ritrovano forse invoglia anche l'uomo che non è solo padre, ma che in previsione dice, insomma, si può immedesimare. Qual è la prima immagine di questo romanzo che ti è venuta alla mente? Da cosa sei partita? Io sono partita da Nora, dalla veggente. Dalla veggente. Quindi in realtà non dal rapporto padre-figlia, ma dalla veggente. Dalla veggente, ma sapevo di voler raccontare una storia di un padre e di una figlia, questo sicuramente. Però la prima immagine che ho avuto reale, concreta, perché i romanzi arrivano a noi attraverso, come hai detto bene tu, delle immagini che ti vengono a trovare. La prima in assoluto, la prima figura che ho visto è stata Nora. Poi è venuto Oliviero e subito dopo Viola. E quindi in realtà c'è un tempo di preparazione nel romanzo, prima ancora di pensare alla storia, in cui ti vengono a trovare i personaggi, almeno io la vivo così. E quindi prima è arrivata Manora, poi è arrivato Oliviero, poi è arrivata Viola e poi ho cominciato a immaginare dove volevo andare, quindi il Monte Sibilla, il Monte Monaco. E poi io lo chiamo il mio libro magico, perché in qualche modo è stato ho seguito un percorso che sembrava tracciato da qualcuno in precedenza. Io non credo cioè credo molto nel destino, e questo romanzo è fatto di coincidenze, di assurde situazioni che si sono venute a creare, che mi hanno spinto proprio là dove volevo, là dove non sapevo di voler arrivare, ma che alla fine sono arrivata proprio lì. Ma tu credi nelle coincidenze per quanto riguarda la tua vita personale? Credo moltissimo, cioè almeno quando scrivo mi capita tantissimo, come se la scrittura fosse una dimensione altra, cioè noi scrittori siamo dei mediatori, cioè dobbiamo portare avanti una storia che poi arriverà al lettore in maniera del tutto personale. Quando un libro ti incontra in libreria, a volte addirittura ti chiama e poi sembra che si rivolga addirittura a te. E quindi in questa magia che è il rapporto tra libro e lettore, noi scrittori ci entriamo fino a un certo punto. E quindi credo in questa straordinarietà e quindi seguo le coincidenze quando scrivo, cerco di andare a intuito. A proposito del peso che può avere lo scrittore, oppure cosa decide la casa editrice, il titolo insomma è un classico su cui ogni tanto ci si scontra fra autore ed editore. Se chiudo gli occhi è un titolo che hai pensato tu o appunto ti è stato proposto, e soprattutto qual è il significato a questo punto di questo titolo? Allora, sono sincera, Se chiudo gli occhi è un titolo che ho pensato io, ma eravamo diciamo in bilico, cioè ero anch'io indecisa tra due titoli, e poi alla fine ha vinto Se chiudo gli occhi. Ne sono contenta, perché il significato è proprio di chiudere gli occhi della razionalità, di quello che vediamo, e cercare di guardare con l'animo, di ascoltarsi e di fermarsi, perché viviamo in un mondo che ci strattona continuamente da una parte e dall'altra e ci sta col fiato sul collo, e quindi ci dimentichiamo di che cosa c'è dentro di noi, perché siamo troppo presi da quello che c'è fuori. E quindi Se chiudo gli occhi è proprio un'esortazione a guardarsi dentro. E questa era Simona Sparaco, ora in libreria con il romanzo Se chiudo gli occhi, pubblicato da Giunti. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, vi ricordo che come sempre la trovate in podcast, radio24.it, su Twitter potete seguirmi come Ale Teddina e su Facebook come il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. Grazie in regia Pietro Lacorte e come sempre da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.